Viene anticipato Giuseppe Terrazzi quando manca un minuto e 30 al termine di questo primo quarto di gioco, che davvero è iniziato nel migliore dei modi e a grandissima velocità. Adesso è Melilli che manovra palla in avanti con Nishida che passa al numero 4 Coppa, servito sotto Grillo. Grillo va a segno e tocca le distanze. Potete sentire naturalmente il tifo delle grandi occasioni con tifosi per entrambe le compagini, sia Cefalù che è arrivata qui con un nutrito gusto per i suoi tifosi. Carmelo Barsala da tre punti, eccezionale, 7-7 Cefalù, 2 Melilli. Sentite anche il tifo dei nostri cefaludesi che provano a dire la loro, invece falsi gremiti per ciò che riguarda la capienza di questo palazzetto. Siamo a 2 minuti e 15 dall'inizio del primo quarto. Io non so se la regia mi sente, perché naturalmente non ho un ritorno in cuffia, ditemi fino a quando posso continuare. Io naturalmente vado a ruota libera, perché in quest'attimo potete capire che stanno iniziando tutte e due le squadre a giocare in maniera scoppiettante. E nuovamente Cefalù che ha subito un canestro, 4 quindi Melilli e 7 Cefalù a manovrare in passo d'attacco. Prende palla Carlos Gallo in posizione di posto alto, serve in posizione di posto basso Peppe Terrazzi che prova il tiro con due avversari, forse sforzato il tiro di Terrazzi, e nuovamente palla per Melilli che prova a manovrare questo play in uscita. C'è un passo in partenza che non viene ravvicinato dalla coppia arbitrale, prova da tre con Nishida Melilli, ma la palla torna nuovamente a Melilli perché conquista il rimbalzo nuovamente con Nishida. Adesso è Coppa in posizione di playmaker a chiamare lo schema, a trovare una forzatura, ma l'arbitro interrompe l'azione perché ravvisa un fallo sul portatore di palla, fallo compiuto da Carmelo Marsala, e quindi rimessa dal fondo per Melilli che rimette con Francesco Messina su Coppa, prova una finta, gioca l'uno contro uno contro Carmelo Marsala, rimbalzo per Cefalù, quindi canestro sbagliato da parte di Melilli, adesso a manovrare in zona d'attacco e Angelo Lombardo che chiama lo schema, prova un uno contro uno, una penetrazione che riesce benissimo, subisce anche fallo ma l'arbitro non lo ravvisa, quindi adesso 9 Cefalù, 4 Melilli. Bene, gioca bene il basket Cefalù in questa prima parte di gioco, parte nuovo in contropiede di Cefalù, subisce fallo, no, l'arbitro ravvisa un fallo di sfondo da parte di Angelo Lombardo. Noi avevamo visto naturalmente entrambe i difensori del Melilli in movimento, invece l'arbitro decide per il fallo di sfondo di Angelo Lombardo, probabilmente anche perché Angelo poco fa si era lamentato con l'arbitro perché non aveva ravvisato il fallo. Comunque adesso Melilli, quando mancano 3 minuti e mezzo da giocare, con Nishida, chiama lo schema, Coppa, Nishida ancora, Messina prova a farsi largo fra gli avversari, ma vanno davvero forte i raddoppi di Cefalù, tira Melilli e conquista il rimbalzo Cefalù e qua manovra con Angelo Lombardo, prova un contropiede, Angelo Lombardo su Peppe Terrazzi da 3, prova Peppe Terrazzi da 3, canestro sbagliato, Melilli conquista il pallone nuovamente in fase d'attacco. Potete capire che è veramente una fase concitata della partita, azioni su continui capovolgimenti di fronte a ritmi veramente forsennati, vedremo quanto durerà. Prova un'entrata riuscita, sbaglia e rimessa per Melilli perché nel rimbalzo viene sporcata la palla da Carlos Gallo, ma l'arbitro assegna la rimessa al Melilli. Fino ad ora molto efficace la difesa del Cefalù che subito va al raddoppio sul portatore di palla e non dà la possibilità ai giocatori di chiamare lo schema. Nuovamente passi in partenza che non vengono ravvicinati all'arbitro, ma sicuro che è difficile essere più spettatori, figuriamoci cosa deve essere in campo per la coppia arbitrale. Intanto vengono chiamati finalmente dei passi al giocatore numero 9 del Melilli, passi in partenza, palla nuovamente per Cefalù che con Fabrizio Cefalù va avanti, chiama lo schema, consegna la palla ad Angelo Lombardo e libera in posizione di guardia Carmelo Marsala che fa passi, assurda questa decisione arbitrale, non riusciamo a capire come faccia a chiamare passi a un giocatore che fa leva sul piede perno e ruota la palla è semplicemente assurdo. Comunque, naturalmente, gli arbitri saranno, come gli spettatori, saranno accaldatissimi, perché vi assicuro non è facile gestire una situazione del genere. Prova nuovamente Marsala, prova nuovamente, scusatemi, Melilli con il numero 4 Coppa, sbaglia, adesso la palla sull'uscita che ha conquistato questa palla, viene fischiato un altro fallo inesistente di Giuseppe Terrazzi. A nostro avviso c'erano 3 secondi netti del pivot del Melilli, ma naturalmente quello che vediamo noi dalla tribuna non è quello che vedono gli arbitri in campo. Cambio intanto per Stefalù, esce Terrazzi ed entra acclamato dal pubblico Nino Scarlata. Vediamo cosa dovrà fare il pivot di Stefalù, se saprà fare valere la sua esperienza in campo. Intanto c'è Francesco Messina che viene subito raddoppiato per Melilli e riesce a smistare il pallone. Vanno subito a raddoppio i nostri. 3 secondi, giustissima la decisione dell'arbitro. Viene servito Chiaramonte in zona di 3 secondi e l'arbitro vede effettivamente questi 3 secondi. I pivot di Melilli stazionano costantemente nell'area ed è giusto che vengano chiamati questi 3 secondi. Ancora una volta Stefalù in avanti con Angelo Lombardo che serve Fabrizio Stefalù. È veramente veloce la manovra di Stefalù in questa. Lombardo prova a giocarsi uno contro uno. Carica fuori Fabrizio Stefalù. Vediamo la Bastetta, tiro da 3, ma non segna quando sono passati ormai 5 minuti e mezzo. Adesso prova che era incredibile, nuovamente decisione arbitrale incredibile. Non vogliamo che succeda quello che è successo, non vogliamo che succeda quello che è successo nella prima di andata. Viene fischiato un fallo inesistente a Carlo Gallo che è immobile nella zona nella sua zona difensiva. E la cosa strana è che a fischiare il fallo non sia l'arbitro che sta dal lato del giocatore di Stefalù, ma l'arbitro che non ha di competenza questa zona. Intanto Chiaramonte sbaglia il primo tiro libero, adesso un tiro e si gioca, non vanno nemmeno a rimbalzo i giocatori di Melilli. Questo per fare vedere quanto è sentita la partita e quanto pesano le gambe in questa fase. Naturalmente è la bella, vi ricordiamo che chi passa andrà direttamente alla successiva fase dei playoff. Ditemi sempre quando io posso continuare. Non ci regala 3 punti Angelo Lombardo in questa azione, adesso contropiede per Melilli che va a segno con il numero 4 Coppa. Molto intelligente la difesa di Stefalù che preferisce non fare fallo, intanto viene fischiato un time out, quindi un minuto di pausa per noi. Vi dico che mancano 6 minuti da giocare, il punteggio 6 Melilli, 9 Stefalù. In quest'attimo Stefalù sta dimostrando veramente tanta grinta e tanta voglia di passare al turno successivo. Le 11 canestri che abbiamo fino ad ora subito sono stati naturalmente condizionati da pesanti scelte arbitrali. Io, se volete la linea, ve la posso anche restituire per 20 secondi, altrimenti continuiamo con la nostra diretta. Aspetto notizie. Puoi continuare, Peppe, puoi continuare. E allora continuiamo, vi dico, mancano 20 secondi alla fine di questo time out voluto da Massimiliano Fiasconaro, perché Melilli si stava facendo nuovamente sotto, gli arbitri in quest'attimo chiamano nuovamente le squadre in campo e secondo me farebbero anche meglio a consultarsi tra di loro, perché sono, secondo il mio modesto avviso, stati pesanti nel condizionare alcune azioni di gioco. 6 minuti sono stati già giocati in questo primo quarto, rientrano le squadre in campo, palla per Stefalù che rimette dal fondo con Fabrizio Stefalù. Sentite il tifo di tutte e due le compagini. Stefalù, palla su Marsala, riceve nuovamente palla da Marsala che restituisce il pallone. Adesso Stefalù in fase d'attacco con il suo play, provano subito i raddoppi anche i giocatori di Melilli che stanno giocando a uomo come Stefalù. Bellissima azione del Stefalù sotto canestro e viene fischiato un 3 secondi a Nino Scarlata che aveva ricevuto una palla bellissima da parte del nostro playmaker Fabrizio Stefalù. Però si stanno alternando Fabrizio Stefalù e Angelo Lombardo in campo nello scendere il pallone. Adesso nuovamente Melilli in fase d'attacco con il suo stancabile play Nishita Grillo, riceve di nuovo palla Nishita, ancora adesso Coppa, prova un 1 contro 1, tira da fuori, palla di Stefalù che riesce ad ottenere il rimbalzo, poi la palla rimbalza sulla parte alta del tabellone e quindi è un fuori per i biancocelesti. Nuovo cambio nelle file del Melilli, esce il numero 4 Coppa, entra nuovamente in campo Messina, entra per la prima volta in campo Messina, però Ivan Messina, nuovamente c'è lui in avanti con il suo playmaker che chiama lo schema, la palla a Carlo Giallo, adesso Angelo Lombardo viene spinto ma l'arbitro ravvisa i passi sulla spinta che invece non viene evidenziata. Secondo noi il numero 9 del Melilli, Messina, si aiuta, Nicita si aiuta sempre quando va a ricevere il pallone, quando prova a contrastare gli avversari, ma gli arbitri fino ad ora non hanno fischiato fallo a questo playmaker bravissimo veramente di Melilli. Viene anticipato adesso da Angelo Lombardo Francesco Messina in maniera fallosa, naturalmente dopo questi attimi di nervosismo Gastonaro decide di richiamare il nostro playmaker in panchina al posto di Angelo Lombardo, entra il capitano Carmelo Monaco, però Cefalù in campo con Marsala, Cefalù, Gallo, Monaco e Carlata, invece in lunetta per Melilli c'è il numero 6 Francesco Messina, insieme al Francesco Messina ci sono Grillo che tirava a segno nel suo primo canestro, Grillo, Chiaramonte, Ivan Messina e il playmaker Nicita. Naturalmente vi dicevamo, per ora in quest'attimo Melilli sta facendo valere il fattore campo, siamo in risultato di 8 per i padroni di casa, 9 per Cefalù, 2,57 per Cefalù in questo primo quarto. Fabrizio Cefalù prova un tiro e la palla finisce nelle mani del Melilli che da subito, prova subito il contropiede, ma il contropiede viene neutralizzato, forti i raddoppi di Cefalù che riesce a conquistare palla in fase difensiva, ma naturalmente ritrattamento di fronte con Carlo Giallo che prova un uno contro uno, sbaglia il tiro Carlo Giallo ma subito Carlata conquista il rimbalzo e va a segno, quindi Cefalù 11, Melilli 8, 2 minuti e 20 da giocare, ancora Melilli in parte offensiva con il suo playmaker Nicita. Nicita serve Ivan Messina che commette passi in partenza ma l'arbitro non li ravvisa, prova a giocare un uno contro uno Ivan Messina, inesistenti falli, i passi in partenza, non si capisce per quale motivo la coppia arbitrale non debba chiamare passi in partenza che ci sono sempre, diciamo sempre da parte dei giocatori del Melilli, ma fino ad ora ne hanno chiamato uno solo su tantissimi che noi ne abbiamo invece visti. Adesso Ivan Messina in lunetta perché ha subito fallo, va a segno nel primo tiro libero. Vediamo il secondo tiro libero di Ivan Messina, va a segno anche del secondo, rimessa al fondo per Cefalù con Nel Carlata che serve Fabrizio Cefalù, chiama lo schema Fabrizio, passi di Fabrizio, passi stupidi veramente da parte del playmaker di Cefalù. 2 minuti e 3 secondi da giocare alla fine di questo primo quarto che fino ad ora, al di là dei punti che sono davvero pochini per un quarto di tempo complessivo, stanno giocando veramente forte le due squadre, stanno studiando con azioni scoppiettanti. Adesso Messina che manovra, prova un uno contro uno, scarica verso il pivot Grillo ed è il sorpasso da parte di Melilli, 12 Melilli, 11 Cefalù, ancora il biancocelesti in fase offensiva, un blocco portato da Nino Gerrata verso Carlo Giallo in posizione di playmaker che prova a seguire Carmelo Monaco che sbaglia da 3 e adesso palla per Cefalù, palla per Cefalù, no, è incredibile anche questa decisione arbitrale, l'ultimo tocco è dei gialli e invece la palla viene assegnata, la rimessa viene assegnata ai gialli, inspiegabile veramente anche questa scelta arbitrale, anche un cieco se ne sarebbe accorto che nel contrasto l'ultimo tocco era di Melilli e quindi la palla era di Cefalù. Melilli in fase offensiva, viene subito raddoppiato Messina, viene chiuso nella zona di fondo, un altro fallo chiamato a Cefalù e Carlo Giallo a commettere questo fallo, gli arbitri sono veramente ciechi per alcune situazioni e poi invece troppo fiscali e troppo rigidi per altri. Non riusciamo a capire per quale motivo l'arbitraggio debba essere palesemente a favore della squadra di casa. Primo tiro in lunetta per Chiaramonte che sbaglia. Vi ricordo il punteggio quando manca 1:04 da giocare alla fine di questo primo quarto. 12 Melilli, 11 Cefalù. Secondo tiro per Chiaramonte, sbaglia anche il secondo, conquistato il rimbalzo da parte di Nino Sgarlata che dà a Fabrizio Cefalù. Fabrizio Cefalù chiama lo schema e parla con la panchina. Si lamentano naturalmente i giocatori di Cefalù perché non vengono ravvicinati i palli. Fabrizio Cefalù tutto da solo sbaglia questo tiro dalla media distanza. È nuovamente Melilli in fase offensiva che prova a lanciare il contropiede, adesso viene stoppato il contropiede di Melilli, passi in partenza che non vengono ravvisati di nuovo. È incredibile veramente come l'arbitro non riesca a guardare. Prova da tre Messina, vediamo cosa succede. Sbagliato, rimbalzo conquistato per Cefalù, 24 secondi da giocare. Io credo che Cefalù debba sfruttare tutti questi secondi per l'ultima azione di gioco per vedere di superare nuovamente Melilli. Mancano 15 secondi al termine. Carlo Scallo prova una penetrazione, tiro corto di Carlo Scallo e rimessa assegnata a Melilli. Quando mancano 6 secondi da giocare al termine di questo primo quarto di gioco. 12 Melilli, 11 Cefalù, dovremmo evitare di fare segnare Melilli e soprattutto dovremmo evitare di commettere fallo. Cambio intanto nelle file del Melilli. Il tempo è fermo, non si capisce per quale motivo il tempo sia fermo ancora. E finisce questo primo quarto, io penso che fra un minuto potete richiamarmi per un altro collegamento, così abbiamo anche tempo di prendere fiato qui dalla Pala Melilli. Vi dico finale 12-11 di questo primo quarto. CRM Pubblicità. Ristorante Pizzeria Villa dei Melograni, nuova gestione. Ci siamo fatti in quattro: Rita, Daniele, Giacomo e lo chef Giovanni Porcello. Veniteci a trovare venerdì sera per le specialità delle nuove pizze e vi offriamo le misticanze calde. Sabato sera vi offriamo l'aperitivo e domenica a pranzo un ricco ed appetitoso menù. Villa dei Melograni, la scelta migliore per il ricevimento del vostro tanto sognato matrimonio, dove in ambienti eleganti e romantici potrete scrivere quel libro la cui sceneggiatura è già impressa nei vostri cuori. Villa dei Melograni, il posto ideale per festeggiare le vostre ricorrenze più importanti. A Cefalù, in via del Giubileo Magno 2, con ampio parcheggio, Villa dei Melograni. Anche sala congressi. Chiuso il martedì. Per prenotazione di informazioni 0921 422 517 www.villademelograni.it. Fatti trovare su internet. Per la tua vetrina online, affidati ad un professionista del web marketing. Maggiori info su madoniexpo.com. Ripeto, www.madoniexpo.com. Se vuoi stare tranquillo oggi, è necessario revisionare tutto. CT Revisioni Auto e Moto di Campofelice è centro autorizzato revisioni per Ape, autoveicoli fino a 35 quintali, moto, minicar e caravan. CT Revisioni ti garantisce professionalità e competenza. CT Revisioni, con la sua puntualità e gentilezza, ritira anche il tuo mezzo a domicilio. CT Revisioni lo trovi sempre pronto e disponibile a Campofelice di Roccella, sulla strada statale 113, chilometro 200, a Canto Tonis. Telefono 0921 428 945 e 347 40 15 950. Se vuoi stare tranquillo, CT Revisioni. Cos'ha la nostra regione più della Lombardia? Il mare, l'Etna, gli sprechi. Un esempio: il Consiglio regionale della Lombardia costa 71 milioni. L'Assemblea regionale siciliana costa 172 milioni di euro, oltre 100 milioni in più. Sprechi, parassitismi, privilegi, nascosti dietro lo scudo dell'autonomia. Questi ed altri sprechi nelle inchieste del Quotidiano di Sicilia, ogni settimana in edicola, dal martedì al sabato. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio. Dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni. Un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio, che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro d'Oro. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. CRM Sport. Ci ricolleghiamo con Peppe per gli ultimi aggiornamenti. Ed eccoci di nuovo qui dalla Pala Melilli. Nulla di fatto in questo minuto, giocato nel secondo quarto con Melilli in fase offensiva in quest'attimo, in fase di ribaltamento. Prova Melilli e viene fischiato un fallo al numero 20 del Cefalunino Scarlata su questo rimbalzo che si appoggia sul pivot di Melilli. Dicevamo il risultato 12 Melilli, 11 Cefalù, ed è già passato un minuto e 15 secondi in fase d'attacco Melilli. Naturalmente Fiasconaro reclama i passi in partenza che non vengono mai fischiati ai giocatori di Melilli. Nuovamente passi in partenza non raccontati dall'arbitro. È incredibile veramente come si possa condizionare con questi arbitrali la partita in campo, per un campo trattando il Lombardo, Carmelo Monaco, Carmelo Marsala, Carmelo Marsala, Dino Scarlata e Totò Maniscalco. Invece Melilli in campo con Micita, Micita, Coppa, i due Messina e Chiaramonte provano ad anticipare il nostro pivot, il pivot chiaramontano, il suo del pivot di Melilli Chiaramonte. E Nino Carlata va in lunetta per questi due primi tiri liberi. Intanto il punteggio 14 Melilli, 11 Cefalù. 8 minuti e 20 a giocare, cambio nelle file del Cefalù, esce Carmelo Marsala, entra Alessandro Tuminello che va subito in posizione di rimbalzo. Tutti i giocatori si lamentano perché naturalmente non vengono mai fischiati passi in partenza. Ai giocatori del Melilli non va a segno il primo tiro libero di Nino Carlata, che viene cercato dai compagni e dal pubblico di Cefalù. Dentro il secondo tiro del pivot cefaludese, 14 Melilli, 12 Cefalù. E adesso ancora Melilli in avanti con il suo playmaker Nicita viene marciato a uomo, perché per ora è uomo che si muove Cefalù. Passo in partenza di nuovo, incredibile, non vengono picchiati. Intanto il Messina che prova, ed è fallo di Carmelo Monaco. Questo fallo c'è tutto, giusta la divisione arbitrale, giustissima la divisione arbitrale, viene chiamato un fallo a Carmelo Monaco. Naturalmente segnalano agli arbitri il comportamento del numero 6 Messina, che ci aiuta sempre con un braccio quando porta palla avanti. I due arbitri stanno confabulando con i giocatori del Cefalù, vediamo che cosa hanno da dire. Intanto attendiamo che venga pulito il campo, che si è bagnato in seguito ad una caduta, e c'è un cambio, esce il playmaker Nicita ed entra al suo posto il numero 5 Crofani nelle file del Melilli. Intanto viene asciugato il campo in lunetta per il fallo subito il pivot di Melilli Chiaramonte, che ha due tiri a disposizione per incrementare il vantaggio della squadra gialloblu. Va a segno nel primo tiro libero, mancano intanto 8 minuti da giocare in questo secondo quarto di gioco, e se la partita continua così sarà davvero una partita da vivere fino in fondo. Palla per Cefalù che viene avanti con Angelo Lombardo, che viene mancato di un uomo estremissimo, la palla che non è stata in guardia. Adesso Alessandro Rossini, la presenza dei propri compagni, viene subito fallo da Angelo Lombardo, che stava provando a scaricare dal lato debole del campo in una penetrazione. Vediamo, danno due tiri ad Angelo Lombardo, danno giustamente due tiri ad Angelo Lombardo, che era in fase di tiro, anche se con la palla bassa era, stava tirando. Lombardo per il primo tiro libero, va dentro il primo tiro libero del playmaker di Cefalù. Ancora un tiro a distruzione, dentro anche il secondo, 14 punti per Cefalù, 16 per Melilli, 7:45 da giocare al termine di questo secondo quarto, mentre Scrofani porta palla avanti per Melilli in posizione di playmaker, arresta il palleggio, serve Ivan Messina che prova a essere anticipato da Angelo Lombardo, ad arrivare qualcosa Angelo Lombardo a Messina, rimbalzo per Cefalù, contropiede per il centro diretto, viene fermata l'azione di campionazione del Cinello, che aspetta i propri compagni, quindi solamente schiena per Cefalù, Angelo Lombardo prova a servire Carmelo Monaco, Carmelo Monaco serve Nino Gallata, penetrazione per... Ah, peccato, viene servito, peccano di altruismo i giocatori, probabilmente la palla pesa in quest'attimo, quindi non si vuole andare al tiro. Ivan Messina intanto viene lasciato solo e finisce la squadra di Cefalù. Ivan Messina, fallo tecnico al numero 8 che aveva contestato, si era girato nei confronti del pubblico, aveva contestato, quindi fallo tecnico, non capiamo se il tiro viene convalidato al giocatore di Messina, naturalmente al giocatore Messina, o meno, sì, 19-14, però possesso di palla per Cefalù, chiama un time out, giustamente l'allenatore del Melilli per richiamare all'ordine i suoi, un minuto, mentre i due arbitri stanno un po' chiacchierando su quelle che sono le loro decisioni su come gestire la partita, speriamo che non fugga di mano ai due arbitri l'incontro fino ad ora, eccetto il fatto di qualche passo in partenza non ravvisato che però poi si è concretizzato in azione facile per il Melilli. L'arbitraggio sembra un arbitraggio discreto, quindi due tiri a disposizione per Cefalù e poi il possesso di palla. Cefalù potrebbe rifarsi sotto quando mancano 6 minuti e 51 secondi da giocare in questo secondo quarto, vi assicuro, le emozioni qui dal Pala Melilli si susseguono a ritmo forsennato. Io spero di far vivere ai nostri radioascoltatori una bellissima partita di playoff, questa bella di playoff, ancora Ivan Messina che va a contestare nei confronti dell'arbitro, chiede spiegazioni sul che fallo tecnico gli è stato chiamato in lunetta, intanto Nino Carlata per Cefalù. Il pivot va a segno nel primo tiro libero. Vediamo va a segno per il secondo tiro e sentite l'esultanza dei tifosi di Melilli, possesso di palla per Cefalù, il punteggio 19-15 è rimessa per i biancocelesti, la partita naturalmente è tesissima. Vedete palla scarlata, viene rischiata scarlata. Viene rischiato un fallo a Sgarlata. Ci sono un po' di contestazioni fuori dal campo. Si lamentano i giocatori tifosi del Melilli. Intanto si continua a giocare con Cefalù che non riesce a conquistare questo rimbalzo. Adesso un altro fuori che non c'era, palla nelle mani del Melilli, le due tifoserie si punteggiano un poco, naturalmente la partita è calda, tutti i tifosi vengono invitati a sedersi. Intanto in campo Cefalù riconquista palla perché perdono i giocatori del Melilli, 6 minuti e 11 da giocare, 6 minuti e 11 da giocare. Quando a manovrare palla è adesso il playmaker di Cefalù, Angelo Lombardo, palla per Nino Scablato da sotto, viene fischiato un fallo al numero 16 di Chiara Montegrillo, un fallo che c'è tutto. E Nino Scarlata in lunetta, 6 minuti da giocare, ve l'ho detto, fasi consideratissime davvero di questo secondo quarto. Un nuovo cambio per Melilli, esce il numero 4 Coppa ed entra nuovamente il Terrore di Cefalù, Francesco Messina. In lunetta Nino Scarlata, sentite la tifoseria padrone di casa come naturalmente prova a fare sbagliare Nino Scarlata, ma va a segno in questo primo tiro libero, secondo tiro libero per Cefalù, a segno anche nel secondo, chiama un cambio, chiama un cambio l'arbitro. 5 minuti e 58 da giocare, 19 Melilli, 17 Cefalù, comunque vado a finire, io penso che questi due primi quarti valgano veramente questa trasferta in quelle di Melilli per la tifoseria di Cefalù. Viene subito raddoppiato, viene subito raddoppiato Ivan Messina e viene fischiato un fallo a Nino Scarlata, probabilmente il fallo c'era ma era di Totò Maniscalco. Cambio, cambio nelle file del Melilli, c'è un leggero infortunio per Grillo. Animi naturalmente caldi in campo, rimessa dal fondo per Melilli, a manovrare in area di ala, ci sono dei passi in partenza nuovamente che non vengono ravvisati per Ivan Messina, fa confusione anche Melilli, prova un tiro forzato e viene fischiato un fallo ad Angelo Lombardo, fa segno Melilli, 22 Melilli, 17 17 Cefalù, 5 e 38 da giocare e in più un tiro libero per il numero 9 Nicita. Naturalmente tutti i giocatori dicono che i ragazzi del Melilli commettono falli in partenza in una prima fase, quando impostano la prima fase di gioco in lunetta. In quest'attimo Nicita che segna verso il suo pubblico, che fa adesso in fase d'attacco, sono 6 punti da recuperare per il bianco celesti, una partita veramente grintosa dove c'è tantissimo agonismo, roda da 3 Angelo Lombardo e va a segno, 23 Cefalù, 20 e 23 Melilli, 20 Cefalù, 5 minuti e 19 da giocare in questo secondo quarto di gioco, una partita davvero scoppiettante. Ivan Messina, passi nuovamente di Ivan Messina in partenza, ma non vengono ravvisati, comunque l'arbitro lascia correre su un piccolo fallo che praticamente è stato messo, ma ripete la linea, la sospensiva riceve palla Terrassi, prova gli Terrassi, tira Terrassi, va a segno, segno 23 Melilli, 22 Cefalù, 4 minuti e 49 da giocare, contropiede, prova un anticipo su Ivan Messina, Totò Maniscalco, l'arbitro decide di assegnare la rimessa al Melilli, è una cosa equa perché non fischia il fallo a Maniscalco, ma la palla era blu e quindi l'ha data ai gialli, equa questa, ha pareggiato praticamente la sua decisione il giocatore, l'arbitro, 3 punti per Ivan Messina, intanto nuovamente 26 minuti, 22 secondi, 4:33 a giocare. Ancora si fronteggiano le due formazioni, hanno tanta energia in corpo, blocco per... viene messo a terra Angelo Lombardo, Cefalù interrompe, viene buttato letteralmente a terra Angelo Lombardo, c'era un fallo nella prima fase di gioco, poi forse Angelo Lombardo ha enfatizzato un poco nella fase di raddoppio. Comunque si rialza adesso il giocatore di Cefalù, 4:18 al termine di questo secondo quarto. Palla per Melilli in zona d'attacco che Angelo Lombardo fa vedere all'arbitro, naturalmente il colpo subito, l'arbitro dice: io non me ne sono accorto, nel raddoppio c'è chi ha lavorato ai bianchi, Angelo Lombardo, ma comunque il basket si sa che non è il Brizio, la Brizio 25 è uno sport un pochettino maschio, come direbbe qualcuno dei miei colleghi, che normalmente viene prestato al calcio. Nuovamente attengono Melilli con una per tre del suo primo di tenere sotto collo in posizione di angolo, ancora Cefalù ad andare avanti, 29 Melilli, 22 Cefalù, servito Peppe Terrasi e subisce fallo Peppe Terrasi, è per lui due tiri liberi quando mancano 3 minuti e 52 da giocare di questo secondo quarto, che sembra un quarto davvero interminabile, perché è un quarto dove si sta giocando poco e dove si sta chiacchierando tanto, ma questo da ambo le parti. È normale che l'atmosfera sia calda, perché questa bella di quello è uno che sta a perdere, e sicuramente chi non vuole perdere per nulla è Melilli, che è la seconda classificata, lo ricordiamo, nel girone orientale della Serie C regionale. Intanto assegno a Giuseppe Terrasi nel primo tiro libero, 29 Melilli, 23 Cefalù, un altro tiro libero per il pivot Bianco Ceresta, assegno anche nel secondo tiro, 29-24, parte nuovamente il cronometro, riuscita a manovrare in fase d'attacco, si sposta sulla destra con Angelo Lombardo che fa un muro nei confronti del giocatore di Melilli, passi in partenza di nuovo di Messina, ma perché non si ravvisa mai, ce lo chiediamo davvero, forzatissimo Messina, Cefalù conquista palla, prova ad lanciare il contropiede con Angelo Lombardo, ma si ferma, perdito Dino Sgarlata, non chiama il fallo su Dino Sgarlata, l'arbitro è intanto Nicita, sbaglia fortunatamente per Cefalù questo tiro da tre, mentre i cefaludesi stavano a chiacchierare, a parlare, a contestare con l'arbitro. Nicita da solo con i piedi per terra, sbaglia per questo tiro da tre, ancora Angelo Lombardo, perdiamo palla, la recupera il nostro perimeter, che è un'infrazione che non viene ravvisata, ma sbaglia il canestro Angelo Lombardo da solo, 2.50 da giocare, 29 per Melilli, 24 per Cefalù, perde palla in fase d'attacco, intanto Melilli, è davvero una partita entusiasmante per i nostri radioascoltatori, lo diciamo, io vorrei che tutti gli appassionati di basket di Cefalù fossero qui al Pala Melilli in quest'attimo per vedere con quale grinta si stanno fronteggiando le due formazioni, e noi naturalmente le stiamo seguendo in diretta qui dai microfoni di CRM. Chiamata una sospensione dal allenatore di Melilli, 29 Melilli, 24 Cefalù, in questa bella di play-off per la promozione in Serie C nazionale, a fronteggiarsi la seconda del girone orientale Melilli contro la settima del girone occidentale Cefalù, 29 lo dicevamo ancora Melilli, 24 Cefalù, 2.46 al termine di questo secondo quarto, quando fra 20 secondi le squadre torneranno in campo per regalarci questi due ultimi minuti di gioco. Vedremo con chi scenderà in campo dopo il time out Melilli, che è la prima squadra a entrare sul terreno di gioco. Sono Carellino, Lucita, Caramonte e i due fratelli Messina in campo, mentre Cefalù torna in campo con Angelo Lombardo, Peppe Terrazzi, Carlo Gallo, Fabrizio Cefalù e Carmelo Monaco, il quintetto che è stato all'inizio della partita. Cefalù manovra palla con Fabrizio Cefalù in posizione di pericolo, chiama allo schema ad aiutare Fabrizio Cefalù, Angelo Lombardo per una presenza che si liberino i compagni con una passata, che cambia la situazione dell'azione, ancora Angelo Lombardo che prova un tiro da solo, un fallo di Nicita nei confronti di Angelo Lombardo, fallo che c'era tutto perché il giocatore del Melilli stava arretrando di fronte alla prestazione di Lombardo, c'è cascato il giocatore di Melilli, ha giocato d'astuzia in controtempo Angelo Lombardo, e adesso il playmaker di Cefalù si trova in lunetta, mentre Fabrizio Cefalù e Caramelo Marcala sono a parlare con l'allenatore. Primo tiro libero per Lombardo va a segno, 29 Melilli, 25 Cefalù, 2 minuti e 31 da giocare, 2 minuti e 31 da chiudere in questo secondo. Quarto, non va a segno nel secondo tiro, Angelo Lombardo che chiama subito, Carlo Zello che è andato a rimbalzo ed è caduto, Fabrizio De Valui si impossessa il pallone, nuovamente grande in quest'attimo il gioco del Bianco Celeste, ancora in avanti con Angelo Lombardo che chiama lo schema, fa passare la sua davanti con Pepe Terrazzi, Angelo Lombardo subisce una serie di falli. Ah, prova a scaricare Carmelo Monaco e si impossessa il pallone. Melilli, c'erano tutta una serie di falli sul portatore di palla, ma l'arbitro non fischia, non capiamo per quale motivo non fischi. Naturalmente i giocatori di Melilli provano a fare innervosire i due playmaker di Cefalù. Vediamo, ecco, viene fischiato in precedenza di passi adesso al giocatore di Cita, finalmente viene ravvisato unico uno, mentre Angelo Lombardo ha che qualcosa da discutere con il play della squadra che fronteggia Cefalù, cioè con Nicita. Intanto scende palla Fabrizio Cefalù che chiama alla schema, Angelo Lombardo adesso in posizione di guardia, molto rapido Cefalù non riesce, questo assist di Fabrizio Cefalù verso Carlos Gallo e palla nuovamente nelle mani di Melilli quando manca un 36 da giocare di questo secondo quarto che sembra interminabile davvero. E scende palla Nicita per il Melilli, Nicita nella tre quarti campo d'attacco, riceve palla Ivan Messina in posizione di guardia, nuovamente Nicita che prova una penetrazione, scarica all'esterno verso Francesco Messina che tira e rimbalzo per Cefalù, ancora quando i giocatori vengono disturbati c'è un fallaccio su Terrasi che l'arbitro non vede, veramente una cosa assurda, Terrasi in una penetrazione viene fermato fallosamente dal pivot di Melilli, adesso prova da tre Angelo Lombardo, non capisco perché si ostina a provare questi tiri forzati da tre il playmaker di Cefalù, ma anche Melilli ha poca lucidità, e perde palla in fase d'attacco, 52 secondi, 29 Melilli, 25 Cefalù, le due tifoserie si fanno sentire, al scolastico anche gli allenatori, sono coppa per Melilli e Cassaro per Cefalù, questa è la partita che vale una stagione per tutte e due le squadre, prova una penetrazione allo Gallo, adesso in contropiede Melilli con il suo playmaker che serve Ivan Messina, commette falli, passi in partenza Ivan Messina ma l'arbitro naturalmente non li ravvisa, nuovi passi in partenza per il giocatore numero 4 Coppa, adesso Ivan Messina nuovamente e passi nuovamente, incredibile, l'arbitro è cieco, non vede mai passi in partenza, è allucinante, semplicemente allucinante, gli arbitri non sanno cosa siano i passi in partenza, non hanno idea, sono passi in partenza che si rischierebbero anche nelle partite di mini basket perché sono talmente evidenti che sono a dir poco eclatanti, nuovamente Melilli in fase offensiva con il suo pivot, fischiano i 24 secondi, intanto gli arbitri sul tiro di Nicita che non va a segno, palla per Cefalù che può giocare gli ultimi 21 secondi che rimangono di questo secondo quarto di gioco, quando non si fischiano questi passi in partenza naturalmente la partita può prendere in largo perché se si segna queste azioni che sono da bloccare. Angelo Lombardo conquista il pallone verso Carmelo Marsala, non riesce ad andare dentro questa palla, spinge adesso Ivan Messina, 3 secondi, finito il secondo quarto, lo diciamo qui dal Pala Melilli, 29 Melilli, 25 Cefalù, io vi do la linea per 10 minuti e attendo di essere richiamato per poter seguire per gli sportivi cefaludesi e tutti quelli che si stanno ascoltando questa bella di prima giornata di playoff. Grazie, grazie Peppe, ci risentiamo allora fra 15 minuti, giusto? E allora volevo ricordare a coloro che ci seguono in diretta radio ma anche su internet che per seguire la partita potete seguirla dalle 19:30 in poi solo in diretta radio, perché in streaming su internet da Piazza Duomo CRM Happy Radio trasmetterà La Passione di Cristo, una rappresentazione teatrale e organizzata dal Centro di Cultura Polis che fa lo Edion, e adesso continuiamo la nostra trasmissione con la pubblicità.

is written in the sand. L'incontro della valevole per la terza di playoff tra Melilli e Cefalù, e ancora ricolleghiamoci con Peppe. Peppe, che novità ci dai? E allora sono tornate in campo le squadre per questo terzo quarto di gioco. Palla per Cefalù, non è cambiato nulla nel punteggio, 29 Melilli, 25 Cefalù, già sono andati via i primi 30 secondi con Cefalù in attacco. Prova dalla media distanza Carlos Gallo e va a segno, grandissima da destra Carlos Gallo, 27 Cefalù, 29 Melilli, ancora i bianco i giallo-blu in attacco con Ivan Messina. Ivan Messina sotto un blocco di Chiaramonte, prova tutto da solo, uno contro uno, usa il tabellone e va a segno facilmente, 31 Melilli, 27 Cefalù. Una partita brutta da vivere, andato già via il primo minuto di gioco, adesso Cefalù in avanti, prova una protezione Angelo Lombardo, scarica sul Carlo Giallo sbaglia questa, ma riprende il rimbalzo, fa tutto da solo il giocatore di Cefalù, adesso prova a scaricare nei contatti pratiche, hanno scordito la imposizione del secondo, subisce fallo e prendono nuovamente il pallone i ragazzi di Cefalù, ancora Ferrati a provare, commette fallo, subisce fallo Ferrati, bisogna essere onesti su questa azione che era un doppio palleggio del pivot di Cefalù che aveva fermato il palleggio e ricominciato a palleggiare. L'arbitro questa volta è stato cieco e ha aiutato Cefalù regalandogli questi due tiri liberi sulla lunetta. C'è Peppe Terrati e la stanno liberi a Cefalù, danno questo fondo Carlos Gallo, prova, non va a segno, un facile tiro, una bellissima finta quella di Carlos Gallo, la palla lo diciamo pesa tantissimo in questa fase del terzo quarto, è iniziato a dei ritmi molto ma molto più elevati rispetto ai primi due quarti di finora giocati, 31 Melilli in quest'attimo, 27 Cefalù, una partita che se continua così potrebbe fare grandi emozioni, adesso lo fa segno il pivot per Rimolo, per Melilli, 33, 27 Cefalù, adesso Angelo Lombardo che ha fatto la partita, ma lo ha fatto il Cefalù, che attende lo smaccamento dei propri compagni, subisce fallo, Angelo Lombardo non viene schiacciato in fallo, va a segno invece Carlos Gallo, servito sotto dello scarico di Angelo Lombardo e va a segno e subisce anche un fallo, adesso 29 Cefalù, 33 Cefalù. Non mi fanno parlare, credo che la mia voce sia sovrastata da quella delle due tifoserie in lunetta. Carlos Gallo per il possibile canestro del numero 30 in punteggio. Se va a segno, 30 Cefalù, 33 Melilli. Emozioni che si ripetono. Adesso Melilli in forze con il suo playmaker instancabile Nishita. Da Ivan Messina, nuovamente Nishita riceve il pallone, adesso in posizione di angolo Coppa prova un uno contro uno, scarica dal lato opposto, riceve palla Chiaramonte, nuovamente Messina, mancano 7 secondi al termine della azione d'attacco del Melilli, palla rimessa alla tre quarti da Nishita che serve Grillo per Ivan Messina che prova ad entrare, trova un muro, il muro di Cefalù che conquista questo rimbalzo. Angelo Lombardo in attacco, Gallo che si deve darla nella tre quarti, tutto un blocco, subisce un fallo, l'arbitro lo realizza, prova a tirare ma sbaglia Carlos Gallo. Nuovamente palla di Cefalù, non si capiscono oggi. Adesso Melilli prova da tre, Angelo Lombardo tutto da solo, ma sbaglia anche questo tiro da tre. Vuole fare tanto. Il passo in partenza di Messina di nuovo. Incredibile. Passo in partenza, ma non li chiamano. Non li chiamano, è assurdo. Prima muove il piede, poi mette a terra la palla il giocatore. Regola fondamentale del basket. È assurdo. Cambia il piede perno. Ecco, finalmente, di fronte a questo evidente cambio del piede perno, l'arbitro chiama un passo in partenza, è allucinante, i ragazzi del Melilli continuamente commettono infrazioni di passo in partenza, finalmente l'arbitro ne ha ravvisata una, palla per Cefalù quando mancano 6 minuti e 30 al termine di questo terzo quarto che ci sta regalando grandi emozioni Fabrizio Cefalù, 30 per Melilli, 30 per Cefalù, ancora Fabrizio Cefalù avanza, supera la metà campo, scappa alla imposizione di guardia, Riccardo Lombardo, Fabrizio Cefalù, succede qualcosa in area dove Fabio non sarà più schieramante, prova a tirare un tiro forzatissimo, quello di Angelo Lombardo, che allo scadere dei 24 prova, adesso coppa da segno facile, il nostro tiro fa, la prova, ancora Carmelo Monaco in posizione di guardia a destra, Carmelo Massara, era una tomba da tre che è uscita, il canestro non ha voluto gratificare la guardia statunitense. Una palla che è uscita dal canestro, nuovamente adesso Melilli in fase offensiva con Coppa, Coppa è fresco rispetto ai suoi compagni, prova a servire Chiaramonte, lo serve, nuovamente Coppa da tre, vediamo, tiro corto, rimbalzo con Giuseppe per Cefalù, prova a spingere Angelo Lombardo, prova a servire palla, ed è canestro per Angelo Lombardo, fa tutto da solo in questa azione di contropiede, 35 Melilli, 32 Cefalù, 5 minuti da giocare. Una emozione dietro l'altra. Coppa e Scropani che provano a portare palla avanti per Ivan Messina. Ivan Messina serve Grillo. Passa in partenza che non chiama l'arbitro. Aveva mosso il piede perno. Aveva mosso il piede perno. Aveva mosso il piede perno di nuovo Messina. È incredibile. E invece commette fallo Fabrizio Cefalù. I passi in partenza non sanno cosa sia. È veramente assurdo, assurdo. Ha qualcosa da ridire, giustamente Massimiliano Fiasconaro nei confronti degli arbitri. Viene intanto fischiato, l'abbiamo detto, un fallo a Fabrizio Cefalù. Due tiri, invece loro richiedono tre. Il fallo in area, il fallo in area chiedono tre punti, tre tiri, è assurdo veramente. E gli arbitri naturalmente non accordano i tre tiri alla squadra padrona di casa, parlano tanto i giocatori di separata di loro, naturalmente nessuna delle due compagni si sta a perdere ed è giusto che sia così, questa è una partita che vale una stagione, Cefalù era una squadra, è una squadra di giovani che non sperava di affrontare questa fase di playoff in settima posizione, loro speravano nell'ottavo posto, sapevano che l'ottavo posto sarebbe valso l'incontro contro Messina, invece i ragazzi di Cefalù ce l'hanno fatta al settimo posto, quando appena Messina 37 minuti, Fabrizio Cefalù trova una azione da solo, canestro di Fabrizio Cefalù che scoppisce fallo ma non viene picchiato, canestro di Fabrizio Cefalù, 37 nuovamente per i biancocelesti, per i gialloblu, 34 di biancocelesti che adesso devono difendersi, fallo fischiato al numero 12 Carmelo Massala, il fallo c'è tutto, è evidentissimo, vediamo se l'arbitro darà la rimessa dal fondo o i due tiri, non stava tirando, Messina dà i due tiri, invece l'arbitro che ha fischiato il fallo, Ivan Messina in lunetta, 37 Melilli, 34 Cefalù, senti dei fischi, sembra di giocare quasi in casa, sarà un centinaio che potrebbe essere la propria squadra, quella di Melilli, e naturalmente 200 saranno i ragazzi di Melilli armati di trombe, li sentite, rimbalzo per Melilli, passa in partenza, viene fischiato nuovamente un fallo, sul rimbalzo viene fischiato un fallo, quando c'era stato Passi, di Grillo che aveva mosso il piede perno, ma gli arbitri non guardano queste cose, cambio per Cefalù, esce Peppe Terrati, entra Nino Sgarlata che fino ad ora ha giocato davvero poco, vediamo se un po' di contestazione in campo, ve lo ricordo, 38 Melilli, 34 Cefalù. Gli arbitri adesso provano a fare un po' di calma in campo, si scaldano naturalmente gli amici con Fabula Sambo, parti, ognuno vuole fare prevalere la propria ragione, rimessa dal fondo, giustissima questa questa scelta arbitrale di mettere al fondo in seguito al fallo subito da Messina, e adesso Francesco Messina sul pallone, uscito incontro Ivan Messina, riceve palla Coppa, Coppa prova uno contro uno, serve Scrofani, ancora Francesco Messina che mette la palla a terra, è un passo in partenza conquistato il rimbalzo da parte di Cefalù con Terrazzi, scusate non è stato Terrazzi, è stato Carmelo Monaco, è marcato per il primo numero, che lo paga in posizione di contatto, adesso che Patrizio che è dominato, in una posizione di guardia a destra, cade a terra anche Lombardo che viene sciuto, ma nessuno ravvisa niente, passi per effetto Terrazzi che viene sciuto da tre avversari. Angelo Lombardo dice, ma guardate, guardate quello che fanno i giocatori del Melilli, palla intanto per il Melilli, 3 secondi e 57 da giocare, 3 minuti e 57 da giocare, scusate, serve palla Pianamonte, prova un tiro a due, sbaglia, ve l'ho detto, la palla pesa, pesa per tutti e due squadre, 38 Melilli, 34, Diego Luca, adesso va in attacco a 3 minuti e 44 al termine di questo terzo quarto regolamentare, mette palla a terra per Terrazzi, trova il 4-1, prova il tiro su Cefalù, viene stoppato, parte il contropiede di Melilli, fermano il contropiede i giocatori di Melilli, passi in partenza di nuovo, incredibile, incredibile, palla che carambola nuovamente conquistata in rimbalzo da Cefalù, subisce palla, Nino Scarlata, mentre va a rimbalzo, la fa commettere il pallo il numero 5 del Melilli, Crofani. E intanto primo fallo per Crofani, palla ancora per Cefalù che può ancora avere la palla del 36 punti, del 37 punti contro il Melilli che ne ha 38. Angelo Lombardo da Carmelo Massala in posizione di guardia a sinistra, riceve in uscita per quel di pivot, prova una bomba da tre, non va a segno il pivot cefaludese che si era liberato bene, adesso accelera in questa fase di gioco il Melilli che vuole andare avanti, vuole allungare per mettere al sicuro il risultato. Fabrizio Cefalù prova, commette un fallo, canestro buono per Fabrizio Cefalù, il fallo che c'era era prima, ma visto che sia 40 Melilli, 34 Cefalù, il numero 4 in lunetta, Coppa. Intanto non capiamo cosa stia succedendo, però Cefalù dorme un po'. 7 punti di vantaggio per Melilli, farebbe anche bene un attimo per provare a chiamare un auto di questa parte di gioco, viene anticipato di nuovo Cefalù e va segno con Messina, time out da parte di Cefalù quando mancano 2 minuti per completare la sua migliore fase, la più 9 in questo terzo gioco, questo terzo quarto di gioco. Grazionale richiama i suoi, Cefalù sta tenendo direttamente il campo, e Melilli che sa approfittare, sa fare valere la propria esperienza, ricordiamo la seconda del girone orientale, ha vinto tutti gli incontri nella regular season perdendo soltanto contro la corazzata Messina, quindi quasi punteggio pieno per Melilli. Noi ricordiamolo, Cefalù è stato il settimo classificato del girone occidentale, i ragazzi di Piazzonaro quindi stanno provando in tutti i modi a dire la loro e credono in quello che potrebbe essere il miracolo, cioè accedere alla seconda fase. Sicuramente però il pubblico non può far altro che rimanere contento per come le due squadre si stiano fronteggiando, errori tantissimi da ambo le parti, forse si avvalua tutto, forse calo psicologico in qualche parte d'incontro, forse gli arbitri hanno un po' condizionato l'esito fino a questo momento, non pensando che il fatto adesso buona per la riceve palla Carmelo Marsala, Carmelo Castanzara che non fallo di reazione, dopo aver perso palla, un'azione stupida, gli arbitri non ravvisano neanche il fallo. Non è in fallo, la palla dovrebbe essere di Cefalù, un errore. Io penso che Gasconaro farebbe anche bene a sostituire Carmelo Marsala. Gasconaro farebbe bene a sostituire Carmelo Marsala, che ha accennato a questa reazione in consulta e non giustificata nei confronti del guardia di Melilli. Messina palla per Cefalù, ed è nuovamente palla per Cefalù. Dovrebbero però aggirare i 24 secondi, perché la palla è stata prima tenuta in campo e poi rimessa e buttata fuori dai giocatori di Melilli, quindi si dovrebbero azzerare. Non va a segno questa azione di Carmelo Marsala, perché scadono i 24 secondi. Intanto Melilli nuovamente in fase offensiva, mancano 2 minuti per giocare alla fine di questo terzo quarto di gioco. Palla in posizione di guardia sinistra per Stofani, che aveva il pallone di Rossalto, Grillo che già prende il Messina, prova una prevedere, scarica per il Messina, ma viene intercettato il pallone, prova il contenuto di Cefalù, e adesso Angelo Lombardo da solo, va a segno tutto, 1 contro 5, bravissimo Angelo Lombardo che ha trovato uno spazio, 36 secondi, 43 Melilli. Ancora Melilli con Coppa in avanti, palleggia Melilli, viene spostato, viene spinto in maniera irregolare da parte di Toto Maniscalco, la guardia di Melilli. Coppa e adesso è in lunetta, perché c'è il bonus, che poi lui è già penalizzato dal bonus, quindi in lunetta Coppa che può allungare. Diciamo in questa pausa quali sono le formazioni: Ferrati, Carlata, Lombardo, Maniscalco e Marsala per Cefalù, Coppa, Grillo, Chiaramonte, Crofani e Francesco Messina per Melilli. A segno il giocatore del Melilli, il primo tiro libero, adesso secondo tiro libero, buono anche il secondo tiro libero. Angelo Lombardo riceve palla, viene aiutato da Peppe Ferrati che aiuta nella fase d'attacco. Provano a liberarsi i giocatori di Cefalù, prova a passare per Peppe Ferrati, prova Angelo Lombardo, carica su Peppe Ferrati, passi di Peppe Ferrati, inesistenti questi passi. E c'erano anche una serie di falli su Angelo Lombardo. L'arbitro chiama delle cose assurde, non vorrebbe che adesso iniziasse a penalizzare la squadra ospite, mentre Melilli con 9 punti di vantaggio può cercare di incrementare ancora il proprio score. Il numero 5 prova un'azione personale, scarica verso Coppa si aiuta e spinge, tira ed è fallo laterale, no, ed è rimesso dal fondo per Cefalù quando mancano 39 secondi alla termine di questo secondo, di questo terzo quarto. Sul pallone Nino Scarlapa, rimesso dal fondo, sostituzione per Cefalù, entra Carlo Scallo, esce Peppe Ferrati, che ha qualcosa da ridire nei confronti degli arbitri. Carmelo Marsala in posizione di playmaker, la palla ad Angelo, però per Cefalù, prova Marsala del Bagno, segno questa bomba da tre, che rimette in gioco Cefalù, 45, Melilli 39, Cefalù 6 secondi a giocare, proverà l'ultimo tiro, Melilli, il canestro non è buono, di Francesco Messina, finisce questo terzo, quarto, veramente entusiasmante. Stanno lottando tutte e due le squadre con unghie e denti. La partita, lo ricordiamo, che vale una stagione. Sarebbe un colpaccio per Cefalù espugnare qui il pala a Melilli. E naturalmente i ragazzi di Melilli non ci stanno e hanno tutte le buone ragioni per volere continuare questa loro sessione di playoff. Anche perché sono i secondi classificati, lo ricordiamo, del girone orientale. Io ho un minuto di pausa, se volete possiamo interrompere la telecronaca. Sì, ci sentiamo fra un minuto. Staring at me, scratching your head with a bewildered look on your face. You don't quite seem to recollect. It's as if there isn't a trace of all the reasons that I got to leave. All the ways you've done me wrong. Maybe I can jog your memory by the time I'm done with this all. Riprendiamo la partita con sempre con Peppe Di Vecchi. Ciao Peppe. E allora siamo tornati qui in diretta dalla Pala Melilli, siamo tornati in diretta per vedere dei passi che sono meno raffinati e per vedere il Melilli nel suo massimo vincitore, 50 punti Melilli, 39 Cefalù, hanno subito due canestri per un minuto i ragazzi della Zanella Basket. Subito fallo, finalmente ravvisato un fallo subito da Nino Scarlata, a commettere il fallo il numero 11 del Melilli Chiaramonte. Cefalù in fase offensiva, esce Totò a niscalco, visibilmente incavolatello, perché sta giocando davvero poco, quindi probabilmente è un pochettino in critica dell'allenatore o dell'allenatore tecnico chiamato. Al numero 12 di Cefalù, tecnico chiamato al numero 12 di Cefalù in una fase molto delicata, non sappiamo però per quale motivo continui a tenere in campo Carmelo Marsala, fino ad ora Massimiliano Pescenaro, forse farebbe bene a sostituirlo, due azioni che non depongono a favore della guardia cefaludese. Io metterlo in panchina un attimo, magari per fargli ordinare le idee. In quest'ottima non vedo un grande contributo da parte della guardia cefaludese per Cefalù. Comunque in lunetta mette a segno tutti e due in canestro, il numero 4 del Melilli al massimo del suo vantaggio quando mancano 8 minuti e 39 secondi da giocare, in possesso di palla 52 Melilli, 39 Cefalù. Non sta giocando bene in quest'attimo Cefalù, che c'è del nervosismo con alcuni suoi giocatori. Ancora Melilli che può rallentare giustamente l'azione, perché adesso deve soltanto erano nuovamente passi in partenza, però crossa Messina. Adesso Cefalù in avanti con Angelo Lombardo, che serve Carmelo Massala per Carlos Gallo, che non mette a segno questa azione ma subisce fallo. È sfortunato anche Cefalù in questa situazione, fallo subito da Carlos Gallo, due tiri per l'ala cefaludese. La palla, lo diciamo, scotta, potrebbe portare a 11 lunghezze per vantaggio di Cefalù nei confronti del Melilli, il giocatore argentino, in lunetta per il suo primo tiro libero. Esce intanto nelle file del Melilli Chiaramonte, entra ancora una volta Grillo, si avvicendano i due pivot della squadra di Melilli. Dentro fortunatamente il primo tiro libero, la palla pesa anche per un pilota e che per un giocatore di esperienza, la pilota libero, metto segno per il nostro giocatore bianco celeste. Quando è adesso Melilli a mano valente sofensiva con Ivan Messina, e Nicita adesso mette la palla a terra, invece è Coppa, viene subito raddoppiato, vanno con i raddoppi, nessuno esce più, su Coppa che mette a segno una palla da 3 punti, 55 Melilli, 41 Cefalù. Se ne sta andando la squadra per unità, si sta intrangendo il sonno della Cannella Basket. Adesso a segno con Angelo Lombardo da 2 punti, aveva un piede sulla linea 3 il giocatore cefaludese, 55 a 43, 7:34 a giocare, ancora tutto in gioco, però nuovamente va a segno il titolo, una bomba da 3 di un solo dei giocatori Cefalù per la seconda volta di seguito. Sul ribaltamento Cefalù non va sul giocatore in posizione d'angolo, è implacabile, Melilli inserisce, prova uno contro uno Angelo Lombardo, riconquista il pallone dopo averlo perso, di nuovo fa tutto da solo Angelo Lombardo, subisce fallo, ma non è così che si gioca a pallacanestro, un playmaker deve fare giocare la squadra. In quest'attimo Cefalù sta facendo tutto fuorché giocare a basket, sta affidando ai personalismi le proprie azioni. Piazzonaro farebbe bene a chiamare un time out e a rimettere un pochettino ordine in campo. Non è la Cannella Basket che vogliamo vedere, se voi volete sentire in lunetta. Angelo Lombardo, lo ripetiamo, 7 minuti e 2 secondi a giocare, mentre il primo tiro libero, 58 Melilli, 44 Cefalù, 14 lunghezze da recuperare, è un'impresa ardua ma non impossibile. Nuovamente Angelo Lombardo al tiro, dentro no, sbagliato il secondo tiro libero, viene riconquistato da Carmelo Monaco, che regala la palla, no, palla, non butta fuori palla Carmelo Monaco. Naturalmente iniziano a esultare un po' i giocatori di Melilli, viene richiamato in panchina Grillo, che è un po' claudicante, entra al suo posto Garellino, Nicita alto, viene marcato altissimo da Angelo Lombardo, Garellino, Nicita di nuovo in posizione da 3 punti della guardia destra, mette palla a terra, carica in posizione di angolo, stavolta tiro a corto perché viene marcato corto, nuovamente c'è lui in fase d'attacco. Siamo molto fermi, prova a recuperare con un lob, e Carlo subisce fallo, a commettere il fallo è il numero 8, Ivan Messina, due tiri per la guardia cefalodese. 6 e 29 da giocare, 14 lunghezze da recuperare per Cefalù. Naturalmente Anne e Lilli iniziano a festeggiare perché mancano 6 minuti e mezzo e 14 lunghezze diventano una Carlo, primo tiro libero a segno. 13 punti da recuperare adesso per Cefalù. Carlos Gallo proverà a segnare il secondo tiro libero. Vediamo che mette dentro anche il secondo. 58 Melilli, 46 Cefalù. Adesso che la squadra ospite deve venire fuori, se vuole provare a recuperare, a portare palla per Igrele Carmelo Monaco, e subisce fallo, recupera un pallone, subisce fallo. Nicita prova a trattenere Carmelo Monaco, che si era fiondato su un pallone per cercare un recupero. Adesso Carmelo Monaco in lunetta, c'è il bonus per Cefalù, due tiri liberi a disposizione. Parla con l'arbitro il numero 4 cefaludese, prova la mano mentre si stanno schierando a rimbalzo i giocatori. Lo ricordiamo, 11 sono le lunghezze da no, 12 le lunghezze da recuperare per Cefalù. Dentro il primo tiro libero, 11 adesso i punti che separano Melilli e Cefalù. Questa fase del bonus potrebbe essere importantissima. 2 punti per Carmelo Monaco, 58-48, 6 minuti e 19, si riaccende la partita. Angelo Lombardo prova a marcare stretto il numero 5 che rallenta il gioco. Da palla Ivan Messina, nuovamente palla sopra, adesso Coppa che viene spinto verso la posizione d'angolo, fa muro il capitano Monaco. Recupera palla Cefalù nuovamente con il leone Carmelo Monaco. Fabrizio Cefalù potrebbe forzare anche un 1 contro 1, assist verso Carmelo Marsala che serve. Fabrizio Cefalù che sbaglia, ma rimbalzo di Carlo Scallo ed è segno, 2 punti per Cefalù. Stanno sognando nuovamente ragazzi, Cefalù 58 Melilli 50 Cefalù, sono 8 i punti da recuperare. Non hanno segnato i segnapunti, non hanno segnato il punteggio, sono 58 a 50, viene fatto notare questo ai segnapunti. 5 minuti e 49 da giocare, credo che saranno 5 minuti e 49 lunghissimi per tutti i radioascoltatori e per il pubblico qui presente al Pala Melilli. C'è una sospensione chiamata dall'allenatore di Melilli Coppa, l'espertissimo Coppa che proviene da serie superiori. Chiama i suoi perché giustamente non ci sta a perdere nessuno dei due coach, nessuna delle due squadre. Tornato in partita Cefalù con due splendide azioni, fortunosa l'ultima con 3 canestri sbagliati e 4 rimbalzi recuperati, 3 canestri e 3 rimbalzi recuperati, fino a quando Carlo Scialla l'ha messo dentro. Carlo Scialla parla della sua esperienza, parla con i suoi compagni. Il quintetto di Cefalù per ora, Carmelo Massala, Carmelo Monaco, Carlo Scallo, Angelo Lombardo, Fabrizio Cefalù. In fase offensiva il Melilli con Coppa che chiama lo schema, viene marcato a uomo da Carmelo Monaco, gira la palla adesso a manovrare e Scopani prova a infilarsi tra gli avversari. Coppa recupera la palla Cefalù da Carmelo Massala che sbaglia questo contropiede, recupera Carlo Stagallo, ma la palla è di Messina. La palla di Messina passa un fratello all'altro, adesso nuovamente Melilli in attacco, mancano 5 minuti e 19 da giocare, 58 Melilli, 50 Cefalù, si studiano le due squadre, naturalmente prova a rallentare un po' il gioco Melilli, che può godere di questo vantaggio di 8 punti, ancora troppo presto però per amministrare. Ivan Messina da 3 punti, 3 secondi, 2-1, si è fissato un fallo a Carlo Scallo, annuncio, avviso, inesistente. Palla, mano sulla palla, mano sulla palla, l'arbitro chiama fallo. Io, se fossi in Massimiliano Cristianaro, proverei a sostituire qualcuno in quest'attimo, proverei a sostituire qualcuno. 5 minuti e 4 da giocare, 8 i punti di distacco fra due squadre, ancora Messina, qualcosa da ridire dell'arbitro. Ivan Messina intanto in lunetta, parlano Messina e Gallo, non so per quale motivo, naturalmente lamentele da parte di tutti i giocatori, o forse qualche offesa magari. E intanto Ivan Messina che prova ad allungare, vai al primo tiro, la palla, lo diciamo in queste fasi, pesa tantissimo anche per giocatori di esperienza come i due fratelli Messina, sbagliano, Messina c'è da lui ancora per sperare, per sognare, Angelo Lombardo prova da tre, sbagliato questo tiro, viene ostacolato irregolarmente, ma gli arbitri non ravvisano, prova adesso una penetrazione, scarica su Ivan Messina, prova vita di tiro, Carmelo Marsala ci casca come un bambino, Carmelo Marsala fa impostare l'azione a Merini che torna più 10, torna più 10, io francamente non capisco perché non cambiamo un po' quei giocatori, non facciamo roba, adesso prova e recupera, riscatta la prestazione opaca, Carmelo Marsala riscatta la prestazione opaca con una bomba da 8 metri, nuovamente a più 7 Melilli che si trova un po' intaccato, adesso Ivan Messina si spinge un po', conquista palla Cepalù, ancora Cepalù può andare avanti con Andrea Lombardo, 4 minuti a giocare, fallacci, non vengono fischiati, fallacci assurdi, fallacci, scarica il Melilli, nuovamente adesso si ferma l'azione su Ivan Messina che non va, però c'è qualcuno con questo rimbalzo incredibile, dicono dalla panchina di Melilli, rallentiamo, 3 minuti e 30 per giocare per Melilli con Chiaramonte, prova Scrofani, vuole giocarsi tutti i 24 secondi, Melilli va a segno da 2 con Coppa e siamo nuovamente a più 9 e subisce fallo Angelo Lombardo, ma non chiama l'arbitro, è allucinante, ancora gli arbitri danno un pochettino andando a favore della storia di casa, anche tutto forse che sia così, se fa lui 5 secondi, Fabrizio di Valù serve Carmelo Monaco in area che è in posizione di 3 secondi, francamente non sappiamo se il numero 4 della squadra cefalodese era in posizione di 3 secondi o meno perché avevamo seguito l'azione per linee esterne, ma probabilmente gli arbitri si sono messi al sicuro chiamando questa azione, interrompendola, 2 minuti e 57 da giocare, 62 Melilli, 53 Cefalù, 9 lunghezze separano le due squadre, nessuno vuole perdere, noi cerchiamo di farvi vivere le emozioni fino alla fine di questa partita, c'è il time out fischiato da Gasconaro che vuole riorganizzare i suoi fino alla fine, io farei qualche cambio ma naturalmente non sono il coach di Cefalù, ti dico qualche cambio lo farei perché c'è qualcuno che magari inizia a essere stanco, ma Gasconaro sarà lui a decidere alla fine, vedremo come scenderanno adesso i Normanni in campo e i primi a entrare in campo di gioco sono invece i ragazzi del Melilli con i due Messina, con Scrofani, con Chiaramonte, con Coppa, un solo lungo per Melilli, in campo invece Carmelo Monaco, Carlo Gallo, Totò Maniscalco, Fabrizio Cefalù e Carmelo Marsala per i Normanni, vorrà provare forse un ribaltamento sulla posizione di angolo per vedere di far segnare Carmelino Marsala e vedere di recuperare con un tiro da tre, sta marcando forte a uomo Cefalù, non vuole perdere una bellissima partita, adesso Francesco Messina prova tutto da solo, perde palla, ma la recupera Melilli con Ivan Messina. Adesso Coppa di nuovo, Baia, Coppa, rialzo però sempre per Melilli, che può ancora organizzare, dicono di girare la palla fino alla fine dalla panchina di Melilli. Esce Carmelo Monaco, prova a conquistare un pallone, è stato un fallo a Totò Maniscalco, che prova ad anticipare Francesco Messina. No, gli arbitri non vedono le gomitate di Messina, vedono sempre invece quello che fa la guardia di Cefalù. Rimesso dal fondo, ancora Melilli a manovrare, 22 secondi. Palla persa, potrebbe riconquistarla, Cefalù entra con Maniscalco che va, subisce un fallo che potrebbe essere intenzionale, ma l'arbitro non lo ravvisa, è incredibile, Maniscalco da solo contro un giocatore subisce fallo, il fallo è palesemente intenzionale, era due metri davanti e l'arbitro non lo chiama, e allora questo vuol dire lasciare, volere fare perdere una squadra piuttosto che un'altra. Il giocatore di Cefalù era due metri avanti rispetto al difensore di Melilli. Il difensore di Melilli ha preso da dietro il giocatore cefaludese e l'arbitro ha deciso di dare un fallo semplice quando il fallo è palesemente intenzionale. Il regolamento parla chiaro in questi casi. Palesemente intenzionale. Va a segno Totò Maniscalco al primo tiro. 72 a 54, 2 minuti e 13 da giocare. Palesemente intenzionale. Non viene fischiato. Vuol dire che non ci siamo, non va a segno Maniscalco, il secondo tiro, Cefalù si conquista, perde di nuovo palla, adesso con Coppa Melilli va avanti, Carlo Sgallo insegue tutto campo, provano di nuovo i cefaludesi a ribaltare la situazione, provano un raddoppio, chiuso un giocatore del Melilli all'area da tre quarti, adesso il Melilli riesce a liberarsi, mancano intanto 12 secondi per terminare l'azione e Francesco Messina prova in tutti i modi, recupera la palla Cefalù con Carlo Sgallo su Fabrizio Cefalù, adesso spinge Fabrizio Cefalù e viene trattonato, subisce un fallo, un altro fallo, però peccato, non riusciamo a mettere la palla dentro, non riesce Cefalù a mettere la palla dentro con Fabrizio Cefalù che deve accontentarsi di questi due tiri all'annetto quando manca un minuto e 46, un minuto e 46 da giocare, lo vivremo tutto quanto fino in fondo. Cefalù deve crederci se vuole provare il pubblico che lo vede incita i propri beniamini come naturalmente fa Melilli, hanno tanto da contestare i ragazzi del Melilli nei confronti degli arbitri, naturalmente ognuna delle due compagini prova a fare capire agli arbitri quello che può, gli arbitri naturalmente ignorano il pubblico, le contestazioni del pubblico, un minuto di sospensione, quando il punteggio è 62 Cefalù, Melilli, 54 Cefalù, due tiri liberi a disposizione Cefalù per accorciare le distanze. Le scelte arbitrali veramente sono da condannare tantissime volte, soprattutto quando a parlare chiaro è il regolamento e non ci siamo proprio su determinate situazioni. Fabrizio Cefalù in lunetta, due tiri, la palla pesantissima per il playmaker cefaludese. Vediamo, gli arbitri osservano le formazioni a rimbalzo, va sul primo tiro libero Fabrizio Cefalù. Oh no, sbagliato il primo tiro corto per Fabrizio. Diciamo la palla pesa, 1 minuto e 46 a giocare, 72 Melilli, 55 Cefalù con questo secondo tiro che riesce, marcano a tutto campo i ragazzi Cefalù. Provano in tutti i modi, Scrovani scende palla, contrastato da Totò Maniscalco, e prova a chiudere il playmaker, viene aiutato da, in un blocco da Carmelo Marsala, commette un fallo, naturalmente non si tira, ancora non c'è il bonus per la squadra cefaludese, rimessa dal fondo per Melilli, 24 secondi da giocare. Ivan Messina sul pallone, provano a spostarsi i giocatori di Melilli, palla per Coppa, passi ma l'arbitro non li ravvisa, e Messina che continua a tenere palla, Fabrizio Cefalù prova ancora, 11 secondi a giocare, naturalmente provano a tenere tutti i 24 secondi i giocatori di Melilli. Corto il tiro, rimbalzo per Cefalù, Toto Maniscalco, aspetta i suoi compagni, viene trattenuto palesemente per la maglietta, ma l'arbitro non lo guarda. Carmelo Marsala, corto il suo tiro da tre, trova ancora Cefalù, 58 secondi a giocare, io proverei con un fallo sistematico, finalmente l'allenatore chiama il fallo sistematico ai propri giocatori, commesso fallo da parte di Toto Maniscalco, forse questa partita se la perderà Cefalù. C'è un po' di responsabilità da parte di tutti perché non ci hanno creduto fino alla fine, il pubblico li ha incitati fino al termine. Questa è Melilli che prova ancora, rimbalzo per Cefalù, fallo tecnico chiamato a Coppa, che viene subito prontamente richiamato in panchina dall'allenatore del Melilli. Coppa entra in campo Stofani, fallo tecnico quando mancano 42 secondi da giocare, 62 Cefalù, 50, Melilli, 55 Cefalù, saranno 42 secondi lunghissimi in lunetta. Carmelo Marsala che ha due punti importanti nelle gambe, mette a segno il primo tiro libero. Marsala adesso sei lunghezze da giocare, da vediamo ancora Marsala, secondo tiro libero, dentro anche il secondo, freddissimo il giocatore di Cefalù, ancora possesso di palla per i Normanni, Fabrizio Cefalù riceve, prova l'uno contro uno e segna Fabrizio Cefalù, subisce un fallo a nostro avviso, ma non, gli arbitri non lo ravvisano, Cefalù continua a marcare forte, fallo di Carmelo Monaco su Soffi, 62 Cefalù, 59, e poi c'è un fallo tecnico, perché Fiasconaro era erroneamente entrato in campo. Adesso questa veramente bellissima, ha visto l'arbitro l'allenatore di Cefalù in campo e ha chiamato questo fallo tecnico, vuol dire che vogliamo penalizzare una squadra piuttosto che un'altra, con queste decisioni, vuol dire consegnare la vittoria nelle mani di Melilli che sta facendo prova in uno dei tiri liberi. Vediamo, 63 Melilli, 59 Cefalù, ancora due tiri a disposizione per Melilli e possesso di palla, vaia sopra la palla, lo diciamo, pesa, vediamo se sbaglierà anche quest'altro tiro libero, su 4 tiri a disposizione ha messo finora su 3, 1 e su 4 mette un tiro libero soltanto Stofani, però Melilli ha il possesso di palla, sicuramente Fiasconaro chiamerà il fallo sistematico Fiasconaro. E Cefalù non vuole vincere, non commettono fallo, naturalmente Melilli prende tutti e 24 secondi, non capiamo per quale, ma dice non fare fallo addirittura Fiasconaro, dice non fare fallo. Palla per Cefalù, 9 secondi, lanciato il contropiede, segno. L'arbitro annulla questo canestro per Cefalù, ha soltanto i due tiri a disposizione della squadra. Va bene, vuol dire che vogliamo consegnare la partita nel mani del Melilli. Incredibile, mentre stava tirando Carlo Scallo subisce fallo e l'arbitro decide di annullare il canestro e di dare solo i due tiri liberi. Gli arbitri stanno veramente, forse c'era anche il fallo intenzionale da incredibile, incredibile veramente, incredibile. Intanto il pubblico protesta un poco. Noi mancano 5 secondi, 63 Melilli, 59 Cefalù, 5 secondi, rasentano dell'incredibile le decisioni arbitrali. Questo per il regolamento è un fallo intenzionale, perché il canestro no. Allora dobbiamo decidere, se il canestro non è buono il fallo è intenzionale, se il canestro è buono c'è il fallo soltanto semplice e quindi un punto, perché o il giocatore ha interrotto appositamente l'azione di gioco a 5 secondi dal termine, o altrimenti vuol dire che il canestro è buono. Dobbiamo scegliere, ma l'arbitro sceglie soltanto per un fallo semplice, 2 tiri a disposizione per Cefalù. Il campo naturalmente tutti gli altri. Allucinante. Le due decisioni arbitrali hanno palesemente condizionato la partita. Attualmente dopo lui sta facendo la sua, canestro buono il primo, vedremo se Carlo Giallo proverà il secondo. Assegno, va, finisce questa partita più bella dei playoff, 63 Melilli, 60 Cefalù, i ragazzi normanni hanno veramente venduto cara la pelle, l'arbitraggio ha condizionato ancora una volta l'incontro con queste scelte, soprattutto nel finale. Finisce la stagione di Cefalù, io credo che possiamo congedarci. 63 Melilli, 60 Cefalù, tanto amaro in bocca. Sportive tutte e due le tifoserie, un po' meno sportivi forse gli arbitri. Va in archivio questa stagione per il Cefalù. Per me è tutto qui dalla Pala Melilli, se voi avete qualcos'altro da aggiungere ditemelo. Grazie Peppe per la tua radiocronaca, grazie. E noi continuiamo con la musica e ricordo, per quanti ancora ci volessero seguire, che la musica continuerà in diretta radio, mentre in diretta streaming su internet da Piazza Duomo. E CRM trasmette la passione di Cristo, la rappresentazione organizzata dal Centro di Cultura Polis Cefalù e Dion. E adesso continua la musica. Un saluto da Patrizia Curreri.